English Bit di Giulia Crivelli. Sick. Are millennials the sickness or the symptom? I millennials sono la malattia o il sintomo? Si intitolava così un articolo apparso su un recente numero del settimanale americano The New Yorker, dedicato alla generazione dei millennials, convenzionalmente i nati dopo il 1980, persone che oggi hanno massimo 37 anni, quindi. La parola che ci interessa è sickness, e quindi sick, malattia e malato. She's been off work because of sickness. Manca del lavoro perché è malata, un'espressione molto simile a quella che useremo in italiano. Notiamo naturalmente l'utilizzo del suffisso -ness, che serve a creare sostantivi partendo da aggettivi in inglese. Ma veniamo a sick. Oltre a malato, significa anche avere la nausea. If you eat any more cake, you'll make yourself sick. Se mangi ancora un pezzo di torta, ti verrà la nausea. To be seasick significa avere il mal di mare. To be airsick, avere il mal d'aria. Poi ci sono gli usi figurati. I am sick of the way you treat me. Sono stufo di farmi trattare così da te. People think I am sick for having a rat as a pet. Le persone pensano che io sia matto, malato, perché mi sono scelto un ratto come animale domestico. To fall sick significa ammalarsi. To make somebody sick, disgustare qualcuno. His hypocrisy makes me sick. La sua ipocrisia mi fa star male, mi disgusta. Sick bag è la busta che si trova nelle tasche posteriori dei sedili degli aerei da usare appunto in caso di malore o nausea. Sick bed è il letto di morte o di sofferenza. The president was forced to leave his sick bed to attend an important ceremony. Il presidente fu obbligato a alzarsi dal letto per partecipare a un'importante cerimonia. Sickening è un aggettivo collegato. The sickening stench of burned flesh, il disgustoso odore, che cioè fa star male, della carne bruciata. In senso figurato si può dire she's off the Bahamas for a month, how sickening. Se n'è andata in vacanza alle Bahamas per un mese, mi sento male, dall'invidia naturalmente. Sick leave è il permesso di lasciare il posto di lavoro a causa di una malattia. E tornando al New Yorker, una parola su millennials. Termini simili sono stati coniati per altre generazioni, i baby boomers, nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, e gli Xers, i nati tra il 1960 e il 1980, e poi sono arrivati i millennials.